Mission si sedette al tavolo di legno accanto al suo spettro, al suo fantasma, a contemplare il mistero della struttura di pietra. Chi poteva averla costruita? Chi? Mission pone la domanda in geroglifici. Una piuma. Sceglie una penna d'oca. Acqua. L'acqua limpida sotto il molo. Un libro. Un vecchio libro illustrato con il bordo dorato. I lemuri fantasma del Madagascar. Piuma. Un gabbiano che si tuffa in cerca di cibo nella scia di una nave. La scia di molte navi in molti luoghi. Una piuma del grande uccello vissuto lì tanto tempo prima. E il lago sacro a 2 giorni di cammino verso est, dove una volta all'anno una giovenca viene immolata al coccodrillo sacro. Mission si chiede se esistano altre strutture simili all'isola. Dove? Una pagnotta, acqua, un otre, un'oca legata a un paletto. Guarda da un capo all'altro, attraverso gli occhi della lucertola che cambia colore. Mission non sa perché le domande che gli balenano nel cervello lo stupiscano tanto, ma è soddisfatto, o quasi, del proprio assoluto stupore. Quando? Una canna, una pagnotta, un uccello volteggia nel cielo. Una donna strappa le penne a un uccello, prende una pagnotta da un forno di argilla. La frattura tra il selvaggio, l'eterno, il libero e il domestico, il temporale, il prigioniero, come quell'oca legata che patirà sempre la sua condizione. La struttura, che ha già cominciato a ossessionare Mission, può essere stata costruita soltanto in un certo periodo, prima che la frattura si trasformasse in abisso. Il concetto di una domanda è canne e acqua. Il punto interrogativo svanisce tra canne e acqua. La domanda non esiste. Strane creature stanno mettendo insieme le pietre. Mission non riesce a vederle chiaramente, scorge sotto le mani, simili a corde grigie. Percepisce l'immensa difficoltà di un compito insolito. Le pietre sono troppo pesanti per le mani e i corpi di quelle creature, eppure chissà perché devono costruire quella struttura. Perché? Non c'è un perché. Fantasma si mosse accanto a Mission e ruttò un profumo dolce di tamarindo. Nonostante l'avvertimento di Babuki, il capitano Mission capì di doverne sapere di più. Accese una candela e si versò in mano una dose sconsiderata di cristalli di Indri. Li ingoiò con una tazza d'acqua. Quasi subito ricordò il gorilla onirico del seminterrato, le strane creature che somigliavano a un maiale e poi il dolce lemure cervo. Mission si sdraiò accanto al suo fantasma. Non era sicuro di voler vedere quello che gli avrebbe mostrato l'Indri. Sapeva già che sarebbe stato insopportabilmente triste. Guardò fuori, attraverso le radici dell'albero, e vide la notte assorbire quel che restava della luce, come una gran spugna nera. Rimase sdraiato nella luce grigia, abbracciato al suo lemure. L'animale si rannicchiò contro di lui e gli mise una zampa sulla faccia. Minuscoli lemuri topo uscirono dalle radici, dalle nicchie e dai buchi del vecchio albero e saltellarono per la stanza, precipitandosi sugli insetti con un gridolino. Agitavano la coda sopra la testa, le grandi orecchie a sventola, sottili come carta, fremevano a ogni rumore, mentre gli occhi grandi e limpidi spazzavano le pareti e il pavimento in cerca di insetti. Facevano così da milioni di anni. La coda irrequieta, le orecchie tremanti, segnano il passaggio dei secoli. Mentre la luce si prosciugava nella spugna della notte, Mission riusciva a vedere per miglia e miglia in ogni direzione. La foresta pluviale della costa, le montagne e le boscaglie all'interno, le aride regioni del sud, dove i lemuri saltavano nel cactus di diera, alto e spinoso. Volteggiano, saltano e scappano via nel passato remoto, prima dell'arrivo dell'uomo sull'isola, prima dell'apparizione dell'uomo sulla terra, prima dell'inizio del tempo. Thank you. vecchio libro illustrato con incisioni, il bordo dorato, carta velina sopra ogni immagine. I lemuri fantasma del Madagascar, scritto a lettere d'oro. Felci e palme giganti, bulbosi alberi di tamarindo, rampicanti e cespugli. In un angolo dell'illustrazione c'è un enorme uccello, alto più o meno 2 metri, un uccello grassoccio, gonfio, inerme, ovviamente incapace di volare. Questo uccello racconta che lì c'è una sacca temporale. Non possono esserci predatori o grossi felini in quella foresta. In mezzo all'illustrazione c'è un lemore, dalla coda ad anelli colorati, sopra un ramo. Guarda il lettore dritto negli occhi. Poi appaiono altri lemuri, come un puzzle. Il popolo dei lemuri è più vecchio dell'Homo sapiens, molto più vecchio. Le sue origini risalgono a 160 milioni di anni fa, quando il Madagascar si staccò dal continente africano. Il loro modo di pensare e di sentire è fondamentalmente diverso da quello nostro, non orientato verso il tempo, la sequenza, la causalità. I lemuri trovano questi concetti ripugnanti e difficili da capire. Si può pensare che una specie che non lascia resti fossili sia scomparsa per sempre, ma il grande quadro, la storia della vita sulla Terra, è sotto gli occhi di tutti. Territori montagnosi e giungle scorrono via, alcune rallentando, altre accelerando, grandi fiumi di terra in movimento, stagnanti in ampia delta, vortici di terra, capaci di segar via isole intere. Una grande spaccatura, i continenti che si sfregano l'uno contro l'altro, poi si spaccano, si staccano di colpo, si allontanano veloci, sempre più veloci, poi rallentano. Ed ecco la grande isola rossa, con i suoi deserti, le sue foreste pluviali, le sue montagne di boscaglie e i suoi laghi, i suoi animali e piante unici e l'assenza di predatori o rettili velenosi, un vasto rifugio per i lemuri e gli spiriti delicati che li prevadono. Lo splendore di pietra preziosa negli occhi di una ragatella. Quando era attaccato al continente africano, il Madagascar sporgeva come un tumore disordinato, percorso da una spaccatura, il contorno dell'isola futura, una lunga spaccatura simile a una grande incisione, alla fessura che divide il corpo umano. La spaccatura era larga 1 miglio in alcuni punti, in altri si restringeva a 100 metri. Era una zona di cambiamento e di contrasto esplosivi, percorsa da violente tempeste elettriche, incredibilmente fertili in certi punti, completamente sterili in altri. Il popolo della spaccatura. Espressione del caos e dell'accelerazione temporale. Percorre in un lampo 160 milioni di anni fino alla separazione. Da che parte stai? Troppo tardi per cambiare ora. Separati da una cortina di fumo, come un grande bastimento in festa varato con fuochi artificiali, la grande isola rossa prese maestosamente il largo, lasciando una ferita aperta nel fianco della terra, sanguinando lava e sprizzando gas velenosi. È rimasta agli ormeggi in una calma incantata per 160 milioni di anni. Il tempo è un tormento umano, non un'invenzione, ma una prigione. Qual è quindi il significato di 160 milioni di anni senza il tempo? E che significato ha il tempo per i lemuri in cerca di cibo? Non ci sono predatori qua. Non c'è molto di cui aver paura. Hanno il pollice opponibile, ma non fabbricano strumenti, non hanno bisogno di strumenti. Sono indenni dal male che riempie l'Homo sapiens quando afferra un'arma. Ora è lui ad avere il sopravvento. Una terribile sensazione di trionfo viene dalla consapevolezza di essere il più forte. La bellezza è sempre destinata alla sconfitta. I malvagi armati si avvicinano, l'Homo sapiens con le sue armi, il suo tempo, il suo appetito insaziabile, quell'ignoranza così totale che non riesce nemmeno a vedere la propria faccia. L'uomo è nato nel tempo, vive e muore nel tempo. Dovunque vada, porta con sé il tempo e lo impone. Thank you. capitano Mission stava viaggiando sempre più lontano, preso in un grande riflusso di tempo. Via e giù e via, gli sussurrava una voce dentro la testa. Mission sa che il tempio di pietra è l'entrata al biologico giardino delle occasioni perdute. Si paga e si entra. Un'ondata di tristezza gli mozza il respiro, un'ondata di dolore che lo afferra, lo strazia. Un dolore che può uccidere. Mission sta cominciando a capire in che moneta si paga in questo posto. Ricorda la creatura rosea come un maiale, perduta in una debolezza passiva, disperatamente accasciata contro una parete, e la scimmia nera contro l'altra, vicino all'ingresso, immobile e nerissima, di un nero splendente. E il dolce lemure cervo, estinto da 2000 anni, il fantasma con cui divide il giaciglio, avanza fra le radici che si allontanano strisciando dall'antico arco di pietra. Chissà come, si trova davanti la scimmia nera e la guarda negli occhi assolutamente neri. Sta cantando una canzone nera, una stridula melodia di un nero troppo puro per sopravvivere nel tempo. È solo il compromesso a sopravvivere. Ecco perché l'Homo sapiens è una creatura così confusa e brutta, destinata a difendere un mondo precario e isterico, una posizione che sa irrimediabilmente compromessa. Mission percorre un tunnel nero che si apre in una serie di diorama. L'ultimo lemure cade colpito dalla freccia di un cacciatore. Piccioni viaggiatori piovono dagli alberi, raggiunti da raffiche di proiettili, e piombano dentro i piatti di grassi bicchieri e politici con la catena ai denti d'oro. Gli umani vomitano con un rutto l'ultimo piccione viaggiatore. L'ultimo lupo della Tasmania attraversa zoppicando un crepuscolo blu, la zampa dilaniata dalla pallottola di un cacciatore. Come tutti i perdenti e gli sconfitti che l'hanno avuto un'occasione su un miliardo e l'hanno persa. Osservare l'osservatore silenzioso. Tirava aria di guai. Il capitano Mission lo sentiva. Aveva ricevuto il rapporto di un informatore indigeno che si era dimostrato affidabile in passato, e sembrava che una spedizione congiunta di francesi e inglesi fosse partita alla volta della sua libera colonia pirata, Libertatia, sulla costa occidentale del Madagascar, per attaccarla. Dato che preferiva una battaglia navale in acque a lui ben note, a un tentativo di difendere una postazione di terra su quattro fronti, decise di armare 3 navi. Prima di salpare, fece visita all'ingresso del Museo delle Specie Perdute. La mattina, Fantasma gli si era strofinato contro con un verso lamentoso. Sa che sto per lasciarlo. Mission si allontanò a passi rapidi e si voltò. Fantasma lo stava ancora guardando, in attesa. Dopo 3 giorni in mare, senza traccia di spedizioni militari e senza che alcuno degli equipaggi delle barche indigene da lui interrogati gli sapesse dire qualcosa in proposito, Mission si rese conto che la storia dell'assedio era un trucco per allontanarlo dalla colonia e tornò indietro. A causa dei venti contrari, non riuscì a raggiungere Libertatia se non 8 giorni più tardi. Dalla baia vide che la colonia era ormai un ammasso di rovine carbonizzate, di cui restava solo un odore di cenere e morte. Mission si diresse verso l'interno dell'isola, con una sensazione di nausea premonitrice alla bocca dello stomaco. Si fece largo tra i cadaveri, attraverso la giungla fino all'antica struttura. L'arcata era stata polverizzata da una carica di esplosivo. Le radici divelte, simili a mani spezzate, piene di sassi e pietrisco. Mission sente un leggero squittio lamentoso. Fantasma è prigioniero sotto un masso. Mission spinge via il masso e prende tra le braccia il lemure morente, conscio del fatto che Fantasma ha aspettato il suo arrivo per andarsene. Il lemure alza lentamente una zampa ad accarezzargli la faccia. Con un lamento flebile e triste, la zampa ricade. Mission capisce che è un'occasione che si presenta solo una volta ogni 160 milioni di anni. È andata perduta per sempre. L'entrata. Una vecchia pellicola, scura, granulosa, carica esplosiva. Zampa implorante che gli accarezza la faccia. Lui sa che io sono lontano 160 milioni di anni. Radici strappate come mani spezzate. Un lamento flebile e triste. Questo dolore può uccidere, ma il capitano Mission è un soldato. Non si arrenderà mai al nemico. Con uno sforzo indicibile, straziante, il suo dolore forma un'imprecazione. Tramuta il dolore in una vampata incandescente di odio e invoca una maledizione sui consigli e i Martin di questo mondo, sui loro servi, lacchè e seguaci. Verserò su di loro tutto il sangue. Cristo è tornato dai 40 giorni del deserto e ha resistito alle lusinghe di Satana. È ritto nel laboratorio di suo padre. La stanza e gli oggetti che contiene gli sono così estranei che non gli danno il senso del ritorno. Ha davvero già usato quelle asce, quelle seghe, quei martelli per fare sedie, tavoli e armadi. C'è un pezzo di legno grezzo sulla morsa. Cristo prende l'ascia e a taglio curvo. Sa che quello strumento viene usato per lisciare il legno grezzo, per dargli forma. Per un attimo sente nella mano le vibrazioni dello strumento, le sente svanire come tracce di un sogno, gli lasciano le dita pesanti, morte. Appoggia una mano sul legno e con l'altra vibra, un colpo improvviso verso il basso, diretto a una protuberanza nodosa. Lascia sfiora la protuberanza e va a tagliare la mano tra il pollice e l'indice, un taglio profondo, ma Cristo non sente maggior dolore che se non la mano fosse di legno. Abbassa gli occhi incredulo. Il sangue che sgorga dalla ferita non è rosso, ma pallido, di un colore giallo verdognolo, e manda un odore di ammoniaca e di marcio, come un'urina andata a male, la puzza del soggiorno dell'uomo sulla terra. Nei punti in cui è caduto sul legno grezzo, il sangue lo corrode come acido, incidendo una faccia scimmiesca, maligna, una maschera di odio, malvagità e disperazione. Con le dita della mano destra, Cristo sfiora la ferita, che a quel tocco si chiude e scompare. Non resta neanche la cicatrice. E un uomo venne da me, come una scimmia malata in braccio, e disse: «Guarisci la mia scimmia». «Non posso guarire gli animali, non hanno anima». «Ma hanno grazia, bellezza e innocenza. Cosa sono le persone che guarisci se non animali?» «Animali privi di grazia, brutti animali deformi e contaminati dall'odio che ha provocato la malattia». Si strinse al petto la scimmia malata e si girò per andarsene. Poi tornò a voltarsi e disse: «Vai a guarire i tuoi lebbrosi e i tuoi mendicanti puzzolenti. Guarisci fino a quando non avrai più capacità di guarire». Altri arrivarono con gatti e furetti malati. Uno venne come un bambino. Questo bambino ha la seconda vista, riesce a leggere nella mente degli altri, parla con il vento e con la pioggia, con gli alberi e con i fiumi. «Guariscilo, ti prego». «Non posso guarirlo, perché non mi conosce e non conosce colui che mi ha mandato». «Allora non mi importa niente di te, né di colui che ti ha mandato, perché ti ho mandato a peggiorare, non a migliorare gli uomini. Ti ho mandato a renderli schiavi, non liberi. Ti ho mandato ad accecare i nostri occhi e a tappare le nostre orecchie». C'è soltanto una certa quantità di energia, e tutte le volte che la uso diminuisce. Una donna mi si è avvicinata di soppiatto e mi ha toccato la veste, e io ho detto: «La virtù mi ha abbandonato». La sentivo svanire, ha un colore, e quel colore è il blu. un blu più intenso di quello del mare o del cielo. La userò tutta e non ce ne sarà più, mai più. Oggi è venuto da me un uomo. Ha detto che era un pittore e che stava perdendo la vista. Non chiedo di essere guarito per me stesso, ma per il dono che possiedo. Io vedo quello che c'è dietro le facce, dietro le colline, gli alberi e il mare. Vedo quello che nessun altro può vedere e dipingo quello che vedo. Gli ho detto che non potevo guarirlo perché non aveva fede. Lui ha riso, una risata dura, stridente come una lima sul bronzo, e ha detto: la gente che guarisci non vale niente. È per questo che la guarisci. È la loro fede a guarirli, gli risposi. Questa è una bugia. Io ho dipinto un quadro con la tua immagine, e il quadro di una bugia. E mi ha mostrato il quadro. Era dipinto su un piccolo quadrato di legno, e i colori sanguinavano la grana del legno come se fosse stato il legno stesso a produrre l'immagine. Ho sussultato, perché avevo già visto quella faccia incisa nel legno su cui era caduto il mio sangue quando mi ero tagliato nel laboratorio di mio padre. E c'era l'oscurità davanti ai miei occhi. Quando l'oscurità è svanita, l'uomo non c'era più. Alcuni marinai che volteggiavano vicino alle coste della Toscana sentirono una voce potente parlare con l'assoluta certezza delle parole che non si udranno mai più. Il grande dio Pan è morto! La data era il 25 dicembre dell'anno 0 d.C. Così come i maghi in Marocco mangiano i propri escrementi per distinguersi dagli altri esseri umani, Cristo deteneva il potere con l'antica corruzione di un sangue diverso. Sorge la domanda: Cristo compiva davvero i miracoli a lui attribuiti? La mia supposizione è che sì. Cristo certamente commise alcuni di questi atti scandalosi. I buddhisti considerano i miracoli e le guarigioni cose dubbie, se non addirittura negative. Colui che compie miracoli sovverte l'ordine naturale con incalcolabili conseguenze a lunga scadenza ed è spesso motivato dal narcisismo. E così Cristo faceva davvero i miracoli, ma la cosa non era poi tanto straordinaria. Qualunque mago che si rispetti può guarire, a volte. Non si può vincere sempre. E scacciare i demoni, specialmente se è stato lui a insediarli. Molti sanno fare magie con il clima. Alcuni anche risuscitare i morti. La missione di Cristo consisteva nel dimostrare che queste cose potevano essere fatte una volta soltanto da un uomo o da un suo rappresentante accreditato. La sua missione era una menzogna. Cristo instaurò il monopolio del miracolo e della mediazione con il meraviglioso. Cristo si faceva chiamare il figlio dell'uomo. Io ho detto che Cristo era lo stampo dell'uomo, ma questo non è proprio esatto. Piuttosto, veniva dallo stampo dell'uomo ed è il figlio dello stampo. Tutte le specie derivano da uno stampo. Ci sono stampi di gatto, di cervo, di serpente, di centopiedi, di primuste. Quando lo stampo viene distrutto o si esaurisce, la specie si estingue. La rivelazione imperdonabile. Il creatore non può più creare, ammesso che abbia mai potuto. Può solo manipolare le creazioni dei suoi servi mortali. Si sta rendendo conto lentamente, mano a mano che oggetti familiari emergono nella luce dell'alba, che il controllo centrale lo sta sfiduciando. Una volta il suo ispettore gli ha detto, una confidenza da ubriaco, che la cosa più dolorosa per un ufficiale è dover sfiduciare un agente sul campo. Se l'operazione viene fatta con perizia, l'agente stesso comincia a dubitare della propria missione e perfino della propria sanità mentale. Sente delle voci? Sente il destino funesto addensarsi come una densa nebbia gialla e sente la paura, mentre la sua missione si sgretola come legno frantumato. Comincia a dubitare che qualcuno l'abbia mai incaricato della missione, o che ci sia davvero una missione o uno scopo, oltre ai dettami del proprio cervello disturbato. C'è davvero un padre che l'ha mandato, che gli ha parlato nella mente con voce diversa? Ha visto i pazzi gridare il loro messaggio nelle strade, morsicati dai cani, presi a sassate dai bambini. Non sarà anche lui un matto come gli altri, disperatamente attaccato a una certezza assoluta, se la sua verità è polvere nel vento. L'agente onorato di un pianeta che si è spento anni luce fa. Cristo deve aver capito di essere stato incastrato sulla croce. Senza la crocifissione sarebbe stata una sorta di storia senza trucco. E così, in definitiva, la sua missione era quella di indurre, per mezzo di un simbolo potente, milioni di esseri umani ad accettare una rovinosa menzogna. In realtà, ogni uomo possiede le qualità potenziali necessarie a guarire e a condizionare il clima. E i razionalisti che rifiutano i suoi insegnamenti sono più autorevoli nel perpetuare quella menzogna. Tra i credenti e i non credenti c'è soltanto la lama di un rasoio. Su entrambi i lati della lama l'abisso di un'ostinata ignoranza. Nessuno è cieco come chi non vuol vedere. Brian Giesin conosceva la favola nucleare per eccellenza. Alcuni miliardi di anni fa, un gigante sporco e sciatto si scrollò via un po' di unto dalla mano. Una di quelle gocce di grasso è il nostro universo che sta cadendo verso il pavimento. Splash! Dopo la morte del capitano Mission, l'ingresso bloccato della sua dimora elettiva e l'albero sradicato furono protetti da 7 guardiani. I guardiani non erano un ordine ereditario. Quando un guardiano moriva, gli altri cercavano un sostituto, che si riconosceva da certi segni. A volte il prescelto era un bambino, in altri casi un adolescente e un adulto. Alcuni dei prescelti erano addirittura anziani. Dato che i guardiani erano solo 7, l'ordine riusciva a mantenere un alto livello di segretezza. Naturalmente la terra che circondava l'albero e l'ingresso era di proprietà dei guardiani, che conoscevano una serie di trucchi per scoraggiare gli intrusi. I potenziali intrusi, per qualche ragione che non riuscivano mai a specificare, si allontanavano per istinto da quel luogo. Era possibile qualcosa da dimenticare, il più in fretta, e così nessuno della zona sapeva dove fosse la regione proibita. I membri del consiglio sapevano dei guardiani, ma li consideravano risibili. Erano convinti che Martin avesse efficacemente bloccato l'ingresso, ammesso che un ingresso ci fosse. Mandarono comunque degli agenti a eliminare i guardiani e impadronirsi della terra. 3 guardiani riuscirono a scappare e gli agenti non trovarono traccia dell'ingresso. Il consiglio aveva ormai preso interesse per quello che era noto come il Museo delle Specie Perdute. Alcuni membri insinuavano addirittura che il museo fosse un'invenzione della mente del povero capitano Mission, ottenebrata dalla droga. In ogni caso, c'erano questioni più urgenti. Dissenso internazionale di dimensioni senza precedenti. I computer del consiglio valutarono che il dissenso sarebbe diventato acuto nel corso dei prossimi 50 o 100 anni. I suoi membri dovevano pensare con almeno 30 lungimiranza. Per distrarre i loro protetti dai problemi della sovrappopolazione, del saccheggio delle risorse, della deforestazione, dell'inquinamento pandemico dell'acqua, della terra, dell'aria, inaugurarono una guerra contro la droga. Ciò forniva il pretesto per mettere in piedi un apparato di polizia internazionale progettato per sopprimere la dissidenza a livello mondiale. L'apparato si chiamava ANA, Anti-Narcotics Association. In arabo, ANA significa io, e così ANA può diventare occhio, AI, che si pronuncia come AI, io. Un pazzo. Sì, però ce n'è tanti in questo momento che vedono attraverso l'occhio. Il membro del consiglio del Texas alzò lo sguardo dalle parole crociate. Dovremmo preoccuparci? La maggioranza beota è con noi. Ma non è una maggioranza. E chi ha mai avuto bisogno di una maggioranza? Il 10% più la polizia e l'esercito sono sempre bastati. E poi abbiamo i media, Amo, Lenza e Paraocchi. Forse che qualche quotidiano a grande diffusione ha mai anche solo insinuato che la lotta alla droga è un enorme granchio? Qualcuno ha mai chiesto perché si spende così poco in ricerca e terapie? Qualche giornalista investigativo è mai andato a ficcare il naso nel riciclaggio di denaro sporco in Malesia o nei conti all'estero di Mahrib Mohamed? Qualcuno ha mai detto che i trafficanti impiccati in Malesia non sono esattamente pezzi grossi? Non c'è limite a quello che i media ingoiano e risputano sotto forma di editoriali. E allora? Ma noi non stiamo dando la zappa sui piedi. No. Stiamo soltanto serrando i ranghi ed eliminando la piccola concorrenza. Ma se facessimo fuori tutti i tossicomani? Non succederà. Solo quando ne bastano per far alzare il prezzo. E naturalmente ci saranno periodi di minor controllo. E così, all'improvviso, tutto il denaro di questo pianeta costruito sul denaro non è nemmeno buono come carta igienica. E il fantasma del capitano Mission si sbellica dal ridere. Per caso proverete con un nuovo agente biologico, vero? Era una giornata limpida nel Madagascar, perfetta per gli incendi, con un vento pungente che si insinuava su per la gola fino a un tratto residuo di foresta pluviale. Alcuni mandriani erano intenti a procurare quello che chiamavano un boccone verde ai loro inutili zebù, una razza di piccoli bovini neri e gibosi venerati dagli indigeni e legati a certe pratiche funerarie idiote. Un albero gigantesco e bulboso, con le radici che stringevano la terra come una madre stringe il piccolo, si trasformò all'improvviso in un falò e ci fu una forte esplosione che lanciò in aria sassi e terriccio. L'esplosione era stata provocata da un barilotto di polvere lanciato da Martin, rimasto intatto nello scoppio che molto tempo prima aveva sigillato l'ingresso al Museo delle Specie Perdute. I mandriani indietreggiarono di colpo, proteggendo la testa. Nessuno restò ferito. Dopo una discussione, decisero che quel qualcuno, nel tentativo di far saltare l'albero, aveva negligentemente dimenticato un po' di dinamite. Sifka Babirbutu era un uomo di una certa importanza, dato che possedeva la più grossa mandria di zebù della zona. Arrivò alla sua casa a due piani, dove lo attendevano un bagno caldo preparato dalla moglie. Dopo il bagno, invece di indossare come al solito pantaloni e camicia di lino, scelse il più bell'abito da cerimonia. La moglie lo guardò con fredda disapprovazione. «Ma sei ubriaco o cosa? Dov'è il funerale?» «Il funerale arriverà per tutto il genere umano, se nessuno mi segue. Niente può salvare il mondo, tranne il sacrificio di ogni zebù del Badalaskar». La donna notò una strana luminosità intorno alla testa e alla voce del marito, come raccontò in seguito all'uomo del centro di controllo malattie. «La sua voce mi ha trapassata, poi ha mandato un grido acuto che mi ha fatto rizzare i capelli in testa come gli aculei di un riccio ed è caduto a terra, morto, come se l'avesse colpito un fulmine». Le vittime della malattia contratta da Sifka avevano in comune, come dimostrò in seguito l'autopsia, un'anomalia. Le loro vene erano gonfie non di sangue, ma di un liquido giallo-verde che mandava una puzza tremenda. La malattia si diffuse con grande rapidità nel continente africano e da lì in Europa e da lì in America. Durante il primo stadio, le vittime avevano bizzarre allucinazioni ed erano convinte di possedere poteri miracolosi e quindi andavano in giro a imporre le mani su chiunque fosse malato o in qualche modo menomato. Davano particolarmente noia negli ospedali perché si precipitavano dentro la sala operatoria e le sale parto. Questo stadio durava qualche ora o qualche giorno. Seguiva una fase violenta in cui la vittima accusava chiunque gli capitasse a tiro di tradire il figlio dell'uomo e alcuni, nelle loro zelande demenza, vibravano il colpo fatale servendosi di lanciafiamme artigianali o di bizzarri strumenti elettrici oppure facevano uso sanguinoso di spade o asce. Lo stadio terminale prevedeva dolore, apatia e morte. Il venerabile chirurgo, con uno sforzo improvviso quanto violento, butta giù il paziente dal tavolo operatorio. «Prendi le tue stampelle e vattene! Non voglio gente della tua risma qui dentro, stronzo di un invalido!» Il pastore sacrifica un bambino sull'altare, con una sega, tracanna, un calice di sangue, prima che il grezzo, paralizza, possa intervenire. Si è osservato che i poliziotti e i militari cominciano con lo stadio violento, il cui potenziale distruttivo viene limitato soltanto da un'altra incidenza di emorragia cerebrale. La stima di questi morti provocati dalla sindrome di Cristo è di 100 milioni, ma quelli che muoiono non sono niente in confronto ai sopravvissuti. «Io sono la via! Nessuno accederà al Padre se non attraverso di me!» Immaginate centinaia di migliaia di profeti, tutti che dicono con assoluta convinzione «Io sono la via!» raccogliendo seguaci, facendo perfino miracoli. Gli effetti speciali sono molto progrediti dai tempi di Gesù. I letteralisti, o LET, come sono stati poi chiamati per brevità, hanno davvero messo in disastrosa pratica le parole di Cristo. Ora Cristo dice: «Se qualche figlio mi ruberà metà dei vestiti, dategli l'altra metà». Di conseguenza, i LET si appostano lungo le strade in cerca di rapinatori e non appena ne vedono uno si spogliano nudi come mamma li ha fatti. Parecchi sfortunati rapinatori sono morti schiacciati sotto mucchi di LET seminudi e urlanti. I perdonatori implacabili, un sottoinsieme dei LET, fanno di tutto per cercare un nemico da perdonare. Un capomafia si è barricato nel suo rifugio di Long Island per paura che il capomafia rivale gli introdusse in casa sua, gli crollasse fra le braccia e lo assalisse con il suo perdono indiscriminato. I delinquenti invadono le stazioni di polizia, le mani tese per farsi ammanettare. Non c'è dubbio, fratelli e sorelle, l'importante è l'amore. Lasciate che l'amore schizzi melassa come un idrante, dategli il bacio della vita, infilategli la lingua in gola, assaggiate quello che ha mangiato e benedite la sua digestione, colate dentro i suoi intestini e aiutatelo nella sua funzione, fategli capire che venerate il suo retto come parte di un infabile insetto, fategli sapere che provate timore e reverende assoluti per i suoi genitali come parte del piano principale, la vita in tutta la sua ricchezza e varietà. non vacillate, lasciate che il vostro amore entri in lui. È noto come il fantasma che vi amerà in modo totale dentro e fuori. Ma alcuni dicono che gli amanti letali non sono altro che vampiri marci e schifosi cui bisogna infilare un paletto per impedire che il loro amore ci riduca a una pappa densa e saporita che ci inghiotta. Il piano principale lo chiamano. Queste pratiche determinano in breve tempo una scarsità acuta di nemici e la nascita del servizio nemici professionisti, SNP. Forniteci la vostra specifica e i nostri esperti di inimicizia penseranno al resto. Volete fondare una nuova religione? Una nuova setta? Nessun culto può sopravvivere senza nemici. Dove sarebbe la cristianità senza la crocifissione? Volete un nemico personale? Fatto su misura per voi? Bene. Forniteci il modello dimostrativo del nemico ideale, un concentrato di tutto quello che detestate e di tutto quello che detesta voi. Di tutti i piccoli vezzi, particolari di abbigliamento e in generale cose che vi danno sui nervi. Infilate le informazioni nel computer e il vostro nemico personale uscirà dritto dallo schermo. Amatela. O amatelo. E avete la vostra aureola. Medusa, con la sua pettinatura afro di serpenti sibilanti, fa una domanda. Quant'è che un'aureola è estensibile? E di quanto? Occhi dappertutto, nel vostro televisore, nella vostra camera da letto, nel vostro bagno. Nasi di poliziotto rossi e bulbosi che annusano in cerca d'erba. Migliaia di fratelli, nasuti, vi annusano, vi ascoltano, vi osservano. 24 ore su 24. Una bocca può trasformarsi in un tubo roseo e serpeggiante che spazza via il cibo dal piatto o addirittura dalla forchetta di un gourmet stupefatto per poi ritrarsi, lasciandosi dietro una scia di melma intestinale. Per di più, questa sindrome di Cristo era soltanto una delle molte piaghe liberate dal fatale scoppio del boccone verde davanti alla porta nascosta del museo delle specie perdute, i cui reperti ovviamente comprendevano virus oltre che animali. Man mano che un'epidemia virale si estingueva e nei rari casi in cui gli scienziati riuscivano finalmente a mettere a punto un vaccino o una cura, un'altra piaga prendeva il suo posto. Ricominciamo da capo, professore. Mi fermo qua perché rischierei di entrare in un punto troppo lungo. Secondo me ha senso farlo nella prossima puntata. Bentornati su Radio ZM, 11.48, abbiamo ascoltato The Caretakers, an empty Bliss Beyond This World, che è un disco molto bello che trovate integrale su YouTube con un'immagine molto simpatica di una roccia che fuma una sigaretta. Guardare per credere. Abbiamo ascoltato le pagine della febbre del ragno rosso di William Burroughs e ci sentiamo fra poco per un po' di musica a rotazione e alle 15 la saga del re muschio. A fra poco.